Questa è stata un'invenzione del signor Perazza della Magis, il quale viene da me e mi dice: guarda, ormai c'è la tecnologia per fare in plastica rotazionale la tua poltrona, facciamola. E io ci ho ragionato sopra un po' e ho detto: è una buona idea, perché questo oggetto sul quale io lavoro dal 1978 è molto trasformista, cioè l'ho stressato in tutte le maniere, l'ho reso grandissimo, alto 4 metri, di mosaico, l'ho fatto di cartapesta con gli artigiani del Carnivale di Viareggio, l'ho fatto in Corea, in quella ceramica storica che si chiama Celadon, quella ceramica verde, l'ho miniaturizzato e pertanto prosegue il romanzo di questa mia poltrona, e questo è momentaneamente l'ultima fase, ma ce n'ho già in atto certe altre che non si possono anticipare. Ma adesso recentissimamente ho fatto la versione di bronzo, che è l'opposto, diciamo, di questa. Questo è un capitolo di questo romanzo che è destinato ad entrare un po' nelle case, come dire, comuni. Nelle case comuni ha un costo relativamente basso. Certo che, essendo un oggetto di plastica rotazionale, non costa come quella fatta a mano, ecco, costa infinitamente meno. Soddisfatto quindi di questo salto, come dire? Sì, mi piace e mi interessa, perché veramente posso dire che gli si introduce un aspetto di popolare, anche di oggetto da giardino, da esterno. Perché no? E queste che vediamo qui esposte sono, come dire, in unica tinta. Sì. Ne ha pensato anche qualche altra versione? In tinta unica, che saranno più di queste, poi ce ne saranno forse un paio di lucide, e poi quella policroma stiamo studiando. Policroma nel senso puntinata, quindi, che ritorna un po' a quella in tessuto. Che simula quella del tessuto e è molto difficile tecnicamente, se si sta lavorando sopra. Quindi alta tecnologia anche, oltretutto, nella produzione. Questa è alta tecnologia, sì.